La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua puntuali a parlare di cinema come ogni sabato alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi, settimana di cinema bella densa con un sacco di nuovi film in sala. Pensate, questa settimana, fra uscite diciamo di quelle un po' più concentrate nel centro settimana e uscite di tenitura, parliamo di 16 nuovi film in sala. E allora andiamo subito a raccontarvi quelle che sono le nostre selezioni, i film che abbiamo scelto, partendo da un film che racconta il grande talento, il talento che sa riconoscere gli altri talenti, e lo fa partire dal titolo, Genius. Sarà molto fiera del libro. La sua fiducia è stata ricompensata. La nostra fiducia. Possiamo dire la nostra fiducia, no, signor Perkins? Tom ce l'ha fatta con il suo aiuto. No, questo non è vero. Non serve che faccia il modesto con me. Tom parla del suo contributo con tale passione. Non fa che parlare di lei continuamente. Max dice questo. Sta buona, Max. No, dobbiamo dare al signor Perkins il dovuto. Max Perkins, l'avete sentito da questa clip, è la storia di questo editor nella New York di fine anni 20, l'editor della casa editrice Scribner Son, che ha avuto un merituccio, diciamo così, di scoprire gente come Francis Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway. E quel gennaio del 29 si presenta in casa editrice un signore che si chiama Thomas Wolfe, che presenta un manoscritto enorme. Perkins lo legge tutto d'un fiato e capisce di avere ancora una volta di fronte un grande autore. E allora il film riflette su questo tema, sul tema del talento che ci vuole a riconoscere il talento negli altri e di come sono questi uomini molto spesso che fanno poi la storia, non solo la storia della letteratura, ma pensate quanti di questi anfitrioni li troviamo nella musica, nello sport e in tutte le discipline umane. Insomma, il genio che luccica, che lampeggia, che ti strizza l'occhio e tu che devi saperlo riconoscere. Come io tanti anni fa riconobbi il genio di Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris! Ciao Franco. Avevo sbagliato probabilmente, però insomma in quel momento avevi gli occhiali da Re di Mare, gli occhiali da sole, sì, assolutamente, raggi uva. Ascolta Boris, un film questo di Michael Grandage che ha una un'impostazione da biopic, pur senza esserlo, perché in realtà è un film a tema, è un film che porta avanti una teoria, grazie anche tra l'altro a un cast altisonante, perché Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman, insomma, come dire, c'è tanta carne al fuoco. Beh, è un film su un genio fatto da geni, adesso scherzi a parte, secondo me è davvero un lavoro interessante, un po' al di là del suo valore cinematografico. Ci siamo spesso dimenticati di raccontare cosa c'è dietro le opere d'arte. Magari ne abbiamo raccontato il contesto, ne abbiamo raccontato l'ambientazione, abbiamo voluto vedere come nascevano, ma per chi nascevano, chi fossero l'elevatrice o i ginecologi che permettevano che queste opere d'arte, che questi grandi uomini venissero alla luce, quello ce lo siamo sempre un po' scordati. E soprattutto nell'arte, a mio parere, è un tema fondamentale. E la figura di Perkins, che onestamente non conoscevo, è affascinante, perché nel momento in cui ti passano per le mani tanti geni, non puoi non chiederti quanto di merito sia in loro e quanto in lui. Ecco, tutte queste riflessioni che sembrano apparentemente non essere una recensione, sono la recensione, perché se un film ti porta ad approfondire così tanto la figura di un uomo che fino a questo momento per la grande massa era dietro le quinte, se ti porta a cercare questo tipo di interrogativi, a mio parere, con tutti i suoi difetti, un certo modo barocco di proporsi, un'estetica a volte troppo patinata, comunque ha avuto il suo successo. A mio parere, più che per la regia e più che per il grande cast, lo deve tutto a Colin Firth, che riesce a umanizzare e a riempire quel personaggio in maniera straordinaria. Gli altri sembrano tutti contorno e a volte persino eccessivi. Prendiamo Jude Law, che insomma, adesso che è un giovane papa forse è intoccabile, ma che di sicuro qua ricade dopo anni in tutta una serie di difetti e vizi e divezzi che insomma lo rendevano un attore un po' difficile da sopportare sullo schermo. Però effettivamente Colin Firth, probabilmente aiutato dal fatto che ha intravisto il genio all'interno di un film imperfetto, ci ha regalato una grande interpretazione. È quasi tutto merito suo e di uno spunto originale, di uno spunto interessante, che forse in un cinema standardizzato come il nostro già metà dell'opera sostanzialmente. Assolutamente. Quindi lo promuovo assolutamente e continuo a sostenere che Colin Firth sia uno straordinario attore. E allora immergetevi nella New York dei fine anni 20 con questo film, ma anche con la lettura del libro che stiamo per regalarvi, perché sorpresa, ogni tanto qui alla Rosa ve ne facciamo tutte le settimane, ai primi 5 ascoltatori che ci scriveranno un SMS al numero che sto per darvi, anzi ve lo do, 349-238-6666, 349-238-6666, i primi 5 ascoltatori che scriveranno semplicemente con scritto libro verranno ricontattati dalla nostra segreteria per il loro indirizzo e riceveranno a casa la biografia di Max Perkins da cui è nato questo film. Quindi insomma, scriveteci 349-238-6666, libro, semplicemente verrete ricontattati, i primi 5 riceveranno il libro da cui è tratto il film Genius. A questo punto, viabilità, fra poco torniamo qui alla Rosa Purpurea, sarà con noi Marco Bellocchio per raccontarci il suo nuovo film Fai bei sogni. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta La Rosa Purpurea. Fai bei sogni. Sono orfano di madre. Avevo 9 anni quando morì. Ciao Massimo. Voglio vederla. Non può essere andata via così senza neanche salutarmi. Le atmosfere del nuovo film di Marco Bellocchio, Fai bei sogni, questo è il titolo del film e anche il titolo del libro da cui il film è tratto, il libro di Massimo Gramellini, un bestseller, 1 milione di copie vendute, uno dei casi letterari degli ultimi anni in Italia, la storia autobiografica di un bambino che perde la mamma a 9 anni e deve insomma in qualche modo fare i conti con questa assenza, ma anche con il dubbio, il segreto, la menzogna e la verità che tardano ad arrivare. Una storia che Marco Bellocchio riporta nei tempi cronologici del racconto originale, con il bambino e il protagonista, Massimo, appunto, che cambia protagonista nel corso del film, arrivando poi alla fine a Valerio Mastandrea, che lo interpreta nell'età più adulta, con Bérénice Bejo nel cast, con un racconto che sottende una serie di riflessioni, che sono appunto quelle della mancanza, sono quelle dell'inadeguatezza, per esempio, del padre nel gestire questa mancanza, sono quelle di una passione a cui attaccarsi per poter vivere, continuando a rimuovere un pochino quel grande dolore, fino a quando la vita a un certo punto non ti presenta il conto e non ti mette di fronte a quello che è stato e scopri magari anche in età particolarmente adulta che la tua vita non è stata quello che pensavi, che le cause che ti hanno portato via l'affetto più grande non sono quelle che credevi. Insomma, la storia di un'assenza della quale abbiamo parlato con Marco Bellocchio, che abbiamo incontrato a Milano nello splendido scenario della Terrazza Martini, e ne è nata questa intervista, appunto partendo dal titolo Fai bei sogni, un augurio che viene sussurrato dalla mamma dolcemente nell'orecchio del bambino, un augurio che però nasconde tante insidie e tanti lati oscuri. È l'augurio della mamma che rivolge al bambino addormentato prima di una tragedia, certo, però insomma è anche un percorso di questo bambino che da prima ha un rifiuto anche proprio fisico, verbale, di questa tragedia che gli è capitata, proprio perché con la mamma era un rapporto esclusivo, un rapporto di figlio unico, e poi poco alla volta, e questo è il percorso del film, lui è come se si adattasse, deve sopravvivere e allora deve inventarsi un mondo fantastico, un protettore, Belfagor, sempre perché non può, perché è troppo piccolo, gestire da solo il dolore, Poi dopo il discorso, quando diventerà adulto, il discorso cambia ed è diventato un suo abito mentale di nascondersi alle grandi emozioni, ai grandi sentimenti, perché ha paura che possa ripetersi quella tragedia, ecco. Dopo la morte di mia madre avevo anche qualcuno che mi aiutava, che mi dava dei consigli. A volte erano veri e propri ordini. Era un tipo piuttosto autoritario. Suo padre? No, Belfagor. Guardando il film, mi è sembrato che uno dei temi sottesi fosse quello anche un po' di un'infanzia infinita che ha toccato una generazione, no? Cioè, siamo una generazione che è riuscita a vivere, perché non ha avuto guerre, non ha avuto disastri, è riuscita a vivere un'infanzia che a un certo punto, dalla quale a un certo punto bisogna uscire, e in questo caso si esce in maniera drammatica. Allora ti voglio proprio chiedere questo: c'è questo tema, secondo te lo volevi, e serve solo un dramma per scuoterti? Certo, lui, il personaggio, e anche Gramellini, la storia di Massimo, a cui noi siamo stati anche sostanzialmente fedeli. La variazione sostanziale è il linguaggio, cioè il cinema e la letteratura sono due cose diverse, per cui è chiaro che la sua vicenda è eccezionale, ma in arte spesso si utilizzano le storie eccezionali, insomma, per raccontare realtà che dovrebbero riguardare un po' tutti. In più, allora, c'era questa grande differenza che era normale per un giovane poi trovare un posto di lavoro. Oggi non si parla più di classi, però insomma ci sono sicuramente però delle classi in cui sì, i giovani possono trovare difficoltà, ma hanno una forte protezione anche economica. Sì, stanno a casa dei genitori, però è diverso il figlio del disoccupato. Ci sono delle differenze proprio di censo, di classe, di stato. Sono sempre più numerosi i poveri rispetto ai ricchi, sempre meno. Ti sei dovuto cimentare, hai fatto cenno adesso, con la questione della passione sportiva in questo film, no? Che è un po', se vuoi, a memoria mi sembra una rarità abbastanza nel tuo cinema. Che tipo di importanza ricopre? Come l'hai ricostruita, come hai lavorato? Visto che hai lavorato molto anche con effetti speciali per ricostruire il comunale di un'epoca, certo, no? Certo. Io sono di un'altra generazione, sono più vecchio, però io ero bambino quando c'è stata la tragedia di Superga, ma io ero tifoso del Torino, quindi in qualche modo c'era un qualcosa che ci accomuna rispetto al Torino. E però appunto questa tragedia di Superga in qualche modo mi attraeva la commemorazione che c'è nel film, proprio perché è un'altra tragedia che ha qualcosa a che fare con la sua tragedia di Campioni, il padre che lo porta allo stadio, che cerca di distrarlo e di trovargli una passione, e lui è talmente bisogno di sostituire è che in questa passione fa quasi il matto, fa sul terrazzo la radiocronaca di quello che ha appena visto, ecco. Tant'è vero che il padre, che purtroppo senza inadeguato a gestire, cerca una sostituta della madre, a cui, anche se è l'esatto opposto della madre, però lui cerca sempre di affezionarsi per questa sua necessità d'amore, di corrispondenza, di qualcosa che gli ricordi la mamma. Tenta un dribbling, poi si gira su se stesso e lascia la palla in custodia buia, stranamente lontano dalla sua area di rigore. E ancora Carelli, poi Ferrini, di nuovo Carelli, che si spinge davanti, non resiste, gli ospiti arretrano e non sembrano in grado di interrompere l'offensiva tambureggiante dei padroni di casa, spinta dall'incessante incoraggiamento del comunale. C'è questa frase che dice appunto Roberto Erlizka al ragazzo, la questione che il sé è la parola dei falliti e dei perdenti, e invece la vita si cresce con il nonostante. L'ho trovata una cosa bellissima, questa del nonostante, che quanto nonostante serve oggi a chi deve affrontare la vita per crescere. È la verità, perché ma se io avessi, se quel giorno, se mia madre, se mio padre è appunto la lingua dei falliti, ed è vero. Poi lui in qualche modo lo fa in ogni situazione, anche la peggiore. Beh, poi la morte è definitiva, ma in ogni situazione, anche la peggiore. Però è un assetto interno, bisogna cercare quello che potrebbe essere una luce che si espande, ecco, attaccarsi alla vita, ecco, certo, senza spaventarsi troppo, appunto poi lì c'è la crisi di... perché se tu ti spaventi perdi la testa, insomma la cosa è complessa, però quei due avverbi sono molto importanti. Marco Bellocchio alla Rosa Purpurea per Fai Bei Sogni nei cinema italiani, una copertura piuttosto capillare, quasi 200 copie per il film di Marco Bellocchio. Giochiamo insieme, è arrivato il momento come sempre del nostro film misterioso. Con questo avremo un esercito, deve essere sintetizzato, quindi è il tuo momento. Adesso ci divertiamo. Sei un rinoceronte! E tu sei... Non so che cosa sei. Vi abbiamo dato qualche elemento in più del solito. Avete sentito di un esercito che deve essere sintetizzato, e poi avete sentito anche un paio di voci piuttosto buffe. Allora cominciate a ragionare di che film si tratta. Il nostro indirizzo di posta elettronica è a vostra disposizione, larosapurpurea@radio24.it. Scriveteci il titolo del film, se l'avete già individuato, e il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray del film, di cui sveleremo un'altra piccola traccia fra poco. Adesso lì nella regia torneremo con ancora un gran bel film italiano, si intitola La ragazza del mondo, sarà con noi la protagonista, Sara Serraiocco. La rosa purpurea. Io alle 6 stacco. Se te va, te posso offrire qualcosa al bar? Non posso. Sto aspettando mio padre. Dobbiamo andare in adunanza. All'adunanza? Sì, è la riunione dei testimoni di Geova. A messa? Tipo. Se vuoi domani... Vado a predicare. Ma chi sei? Bella inquadrata te, eh? Avete sentito un passaggio già abbastanza esplicativo di La ragazza del mondo, il film di cui vogliamo parlarvi adesso, con Michele Riondino e Sara Serraiocco, che è in collegamento con noi al telefono. Ciao Sara! Ciao, ciao! Grazie di essere qui con noi alla Rosa per parlare di questo bellissimo film. L'avevamo recensito già ai tempi di Venezia, quest'estate, con grande convinzione, e siamo molto felici che abbia trovato finalmente la via dell'uscita in sala, dell'uscita al cinema, perché è un film veramente di grandissima intensità, e a questo chiaramente va ascritto il merito a te e a Michele Riondino, che formate una coppia straordinaria sul set. La storia, tra l'altro, molto delicata, perché è trattata con grande delicatezza da Marco Danieli, che è il regista, di una ragazza, appunto, il tuo personaggio, che è una testimone di Geova, è perfettamente dentro quel mondo lì, che ha le sue regole, che ha i suoi riti, che ha la sua gabbia, come spiegava la clip, ma che a un certo punto si innamora. Che è assolutamente naturale, si innamora di un ragazzo che sta fuori, che sta nel mondo, quel mondo del titolo, La ragazza del mondo, è il mondo a cui si allude nella dialettica anche dei testimoni di Geova, come il mondo esterno a quello della Chiesa. Questo fatto è un fatto gravido di grandi conseguenze, che potrebbero sembrare superficiali a chi non abbia una fede religiosa forte o un senso di appartenenza così forte. La ragazza si è innamorata di qualcuno che sta fuori, e questo non è previsto, non è gestibile sotto un certo profilo. Quello che succede è che il tuo personaggio invece vuole perseguire questo amore, e soprattutto questo amore le fa da catalizzatore, no? Per sentire e capire che questa gabbia sta diventando un po' troppo stretta, giusto? Hai centrato perfettamente il tema del film. Giulia proviene da questo mondo, che è quello dei testimoni di Geova. È un mondo fatto di regole restrittive che non ammette la frequentazione con le persone che loro chiamano del mondo, persone che non fanno parte della comunità, potrebbero distrarti dal tuo dovere di testimoni di Geova. Diciamo che ho fatto una lunga preparazione per questo ruolo, non conoscevo il mondo dei testimoni di Geova e quindi ho sentito la necessità di prendere parte alle loro adunanze, come dice appunto la clip del film, sono dei luoghi di culto dove i testimoni di Geova si radunano questi luoghi sono chiamate sale del regno, e tutti i sabati andavo lì perché comunque da attrice mi sembrava molto interessante attenermi alla realtà del personaggio. Volevo che Giulia fosse in qualche modo simile alle ragazze che avevo visto nella sala del regno, quindi molto contenute, molto, molto timide, molto anche in qualche modo fredde e impostate, diciamo. Poi piano piano durante il corso della storia, grazie anche all'arrivo all'incontro con Michele Riondino, che interpreta Libero, Giulia ha un cambiamento e piano piano inizia a scoprire la vita, a scoprire se stessa, a scoprire... Direi che questo film è un romanzo di formazione, che è Libero per Giulia, è l'espediente che la porterà ad una crescita, quindi il passaggio tra l'adolescenza e la vita adulta. Certo, e anche a capire che forse effettivamente c'era qualche pericolo fuori da quella gabbia, però andava la pena affrontarlo per crescere. Sara, che tipo di reazione c'è stata nel mondo dei Testimoni di Geova dopo il film? Devo dire che la reazione c'è stata più sui social, soprattutto se avete modo di leggere i commenti sotto il trailer del film o sulla pagina Facebook, perché comunque adesso internet è un mezzo di comunicazione che dà la possibilità a chiunque di esprimersi, e quindi diciamo che anche magari i testimoni di Geova, incontrandoli di persona, diciamo, non ci sono rimasti tanto bene. Eh beh, posso immaginare, film, perché effettivamente... Cioè, sì, certo, però ci sono pareri discordanti, devo essere sincera. Ci sono alcuni che lo hanno apprezzato, perché comunque è un film che non è di denuncia, è semplicemente un film che vuole ritrarre il romanzo di formazione di questa ragazza che viene raccontato come una persona del mondo, ed è una storia ispirata comunque a tante storie vere di ragazze testimoni di Geova che magari hanno avuto un'infatuazione, si sono innamorate di un ragazzo esterno alla comunità. Quindi trovi commenti di dissociati o disassociati che discutono con persone che sono ancora appartenenti alla comunità. Diciamo che si è creato questo piccolo dibattito, però penso sia normale dato che il film tratta questo argomento. Sara, grazie allora di essere stata qui con noi. La Rosa Purpurea, okay. La ragazza del mondo è nei cinema italiani, andatelo a vedere perché è davvero un gran bel film. Complimenti. Grazie mille. È arrivato il momento di ascoltare la seconda traccia del film misterioso di oggi. Dobbiamo muoverci ora, abbiamo solo 30 secondi. Conoscete il piano? Ragazzi, che c'è? Si è buttato? D'accordo, uno per tutti. E beh, più di qualche indizio per scoprire il nostro film misterioso da questa clip. La Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Titolo del film, vostro indirizzo. Ci sono lì due Blu-ray di questo film che sveleremo fra pochi minuti, che vi aspettano. Fra poco invece torniamo a parlare con Boris Sollazzo di Sing Street. Ehi, hey. Non esattamente i Beatles, direi. Ah, vai un attimo fuori e accendigli la macchina del tempo, Tono. Così ce ne andiamo tutti nel passato. Ah, se questo è il futuro, siamo tutti nella merda. E dai, guarda quello! Non canta neanche dal vivo. Guarda che questo è un video, Robert. È arte. Li fanno tutti di questi tempi. Guarda là. Ah, quei meravigliosi anni Ottanta in cui i video arrivavano sulla scena della promozione musicale e i grandi non capivano, vedevano questa scena qua e non capivano bene a cosa servissero, in cui Duran Duran cantavano Rio con i loro capelli colorati, gli orecchini, quell'aria un po' new wave, tutto dentro il film di John Carney. Sing Street ritorna a quello che ormai è diventato a tutto tondo il cantore dei ragazzi che vogliono cantare, possiamo dire. Tutto cominciò nel 2006 con Once, un film che spaccò letteralmente. Io lo vidi a Torino, ricordo, al Torino Film Festival, ma fu un successo mondiale. La storia di questi due ragazzi, un musicista di strada e una ragazza che si incontrano, e di un amore impossibile che non può essere vissuto fino in fondo. Poi c'è stato un lungo silenzio, forse anche per promuovere un pochino questo film. È arrivato un altro film bellissimo, Tutto può cambiare, era il 2014, Begin Again, con Mark Ruffalo e Keira Knightley. Qui il livello degli attori si era sicuramente alzato, sullo sfondo di una New York nella quale uno spiantato produttore musicale cerca una seconda vita rilanciando un artista. E anche qui tanta musica nel film. E adesso arriva appunto questo Sing Street, con cui John Carney torna al suo passato, al suo vissuto, e in cui un ragazzino cerca sostanzialmente di piacere alla bella di turno che sta esattamente di fronte al sua, alla sua scuola, in questa scuola pubblica durissima, dove ci sono atti di bullismo, dove c'è grande tensione, ma in cui lui cerca di uscire da questo involucro, diciamo così, grazie alla musica, formando una band piuttosto sgangherata all'inizio, ma con delle buone idee musicali. Boris, io l'ho trovato un film ancora una volta estremamente godibile, e mi sembra che John Carney abbia veramente una mano felice nel raccontare questo tipo di storie. No, ma lasciamolo dire, che meraviglia, quel tipo di cinema che tu, per cui tu ti rendi conto del motivo, dei motivi, dei tanti motivi per cui continui ad andare in sala, perché guardi un film, nel frattempo batti il tempo con il piede, guardi un film, sorridi anche se non c'è un motivo, per il solo fatto che della gioia che ti dà quel film. Ci si scorda spesso, cercando il cinema d'autore, cercando l'arte tout court, di quanto il cinema sia anche intrattenimento intelligente, e questo è il caso. Poi Carney riesce, forse con un tocco unico in questo momento, a raccontare storie semplici che in mano ad altri sarebbero banali e forse persino irritanti, con una felicità, con una gioia, con un'emozione, con una sincerità che non ha nessuno. In fondo sia Once sia Tutto può cambiare, sia questo film qua raccontano favolette che abbiamo letto e riletto, no? Questo adolescente che più che essere un po' sfigato si crede tale, ma vuole fare colpo su una ragazza, e che fa quello che abbiamo fatto tutti nella vita, cioè cerca di attrarla con quello che fa. In questo caso lui vuole diventare musicista solo per fare a lei l'attrice del videoclip, quindi addirittura insomma un doppio salto carpiato. E poi c'è il fratello maggiore, il racconto quindi di quanto possa essere importante la famiglia, di quanto possa essere importante un alleato. E ovviamente c'è la musica, perché Carney sa raccontare meglio di chiunque altro, e ovviamente c'è Dublino che sa raccontare ancora meglio. E tutto questo nel riuscire a restituire cosa fossero gli anni Ottanta, fuori sia dalla mitizzazione di chi ne ha fatto un cult, sia dal, e quindi da quella nostalgia del vintage, da quella rivalutazione, sia da chi invece ne ha fatto il tempio del vuoto e del vacuo. Sing Street è il, adesso lo dico alla della casa, quindi con tutto il rispetto possibile, il musicarello moderno che tutti vorremmo, perché ha la sua profondità, che è tutta nella sensibilità e nell'emotività dei personaggi, anche dello spettatore, e allo stesso tempo la semplicità che si deve a un film che fa dell'intrattenimento, della musica, il suo centro. Io mi sono emozionato, mi sono divertito in quel ragazzo di 16 anni, mi sono immedesimato, il guaio è che ne ho 20 di più, però devo dire veramente un piccolo gioiello. Come mai non sei a scuola? Non ci vado a scuola, faccio la modella. Forte, per le riviste. Sto per trasferirmi a Londra. Aspetto solo le foto per il book. Non c'è lavoro per noi modelle a Dublino. Ti va di fare un video? Per la mia band. Hai una band? Sì. E ci serve una ragazza. Hai mai fatto un video? No. È un problema? Spero di no. Chiedo al produttore. C'è un produttore? Quello lì in fondo. Se sei in una band, cantami una canzone. Take on me. Take me on. Ricorda un po' il Benigni Troisi di Fratelli d'Italia nel Non ci resta che piangere. Comunque davvero le canzoni originali di questo film Sing Street le voglio, perché sono davvero molto molto molto belle. Allora, Sing Street, film da non perdere assolutamente in questo weekend. Adesso Viabilità, fra poco torniamo insieme e chiudiamo il giro delle novità al cinema e giochiamo ancora insieme con tutto quello che c'è da vedere in casa, fra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. Vi presento. Scegliete la vita. Scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi programma radiofonico, scegliete una frequenza, una giornata, un orario, un conduttore. Scegliete Voice Anatomy. Voice Anatomy, ogni domenica alle 14.30 su Radio 24. Un programma di Pino Insegno. La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea prosegue con l'ultima delle nostre segnalazioni dai film in sala, dalle novità in sala. Torniamo al cinema italiano, molto presente in questo weekend, con il nuovo film di Edoardo Leo, da regista e da attore, insieme ad Anna Foglietta, Rocco Papaleo, Marina Massironi, Massimo Vermüller, tanto per raccontare un po' il cast, il film si titola Che vuoi che sia. Come va? Bene. Bene quanto? Bene 73 euro. Ma come 73 euro? Ieri erano 78. No, uno stamattina ha ritirato 5 euro. All'inizio è normale, no? L'hai detto anche tu. Poi vedrai che poco a poco i soldi arrivano. Ma cosa arrivano, Anna? Che cosa arrivano? Ho chiesto l'amicizia su Facebook a gente che non sentivo da 20 anni. Questo ha raccolto $30,000 per fare un paio di mutande con la tasca. Dimmi tu. Senti, Claudio, stasera usciamo, eh? C'è il party dei 40 anni del marito di Giovanna. No, no, no, una festa proprio no. Ti prego, Claudio, se stiamo a casa ti deprimi. No, Anna, guarda, non mi va di vedere gente. Claudio, ascolta, quali sono le tue parole più belle del mondo? Ti amo. Sono seria. Open bar. Open bar. Straordinario, straordinario questo passaggio. Avevamo parlato di lavoro la settimana scorsa, ricorderete, no? In concomitanza con l'uscita... L'uscita di alcuni film che appunto ci riportavano dentro questa storia, il lavoro di chi ce l'ha e rischia di perderlo, come nel film di Michele Placido, 7 minuti, il lavoro di chi invece anelerebbe un posto fisso, i più giovani. Ecco, questo sembra quasi un film che si inserisce in quel filone. Claudio e Anna, coppia che più che 30 comincia a averne quasi 40, che però questa società ha ricondannato alla precarietà. Lei aspetta ancora un'assunzione di ruolo alla veneranda età, lui ha studiato una vita informatica e poi pulisce i computer dai virus, cercano di raccogliere soldi con un'idea attraverso il crowdfunding e decidono che se raggiungeranno l'obiettivo, registreranno in video una notte di sesso e la metteranno a disposizione di tutti. Chiaramente non vi diciamo come andrà a finire, Boris, però diciamo che è un bel Edoardo Leo di tematiche brillanti, insomma. Ma guarda, parlavamo prima di immedesimazione, il dramma che io vivo con Edoardo Leo, che mi immedesimo nei suoi personaggi e rido con le lacrime, ma non nel senso che fa così ridere che poi alla fine mi escono le lacrime, proprio rido e piango allo stesso tempo, piango per la situazione che la nostra generazione vive e rido per la levità con cui lui sa raccontarla, veramente una delicatezza straordinaria. Non è, questo film non è Noi e la Giulia, nel senso che Noi e la Giulia aveva un racconto che alla fine, con tutti i suoi ostacoli, era anche un racconto di speranza, di rivalsa, di ricostruzione, di ricerca altrove. Questa è una commedia molto più amara, perché Che vuoi che sia, lo dice anche il titolo, Che vuoi che sia, possiamo fare tutto pur di cercare di sopravvivere, perché a questo hanno costretto la nostra generazione. Loro escono una sera e, un po' ubriachi, decidono che per la loro piattaforma di crowdfunding serve qualcosa che possa essere un pochino più motivante, che li spinga oltre le poche decine di euro del loro splendido progetto. Capita a tanti della nostra generazione di avere splendidi progetti che però su cui nessuno è disposto a puntare. Lo fanno e decidono di appunto proporre questa notte di sesso, e ovviamente in questo mondo guardone drogato dai social network è l'idea giusta. Peccato che forse non lo è per loro. Inizia un film che riflette su quanto sei disposto a vendere di te per avere quello che sarebbe giusto avere e basta, quello che già ti spetta. Tutto questo gioco sul paradosso, chiaramente è un paradosso comico, che nel momento in cui però si riflette nella tua vita non lo è più. La forza di Edoardo Leo è proprio questa, avere un linguaggio molto semplice, sia esteticamente sia eticamente, guardare in faccia le cose, prendere attori straordinari. Anna Foglietta, secondo me, è una delle migliori attrici in questo momento a disposizione del cinema italiano, anche Rocco Papaleo come grillo parlante non è affatto male, e restituirlo al mondo. E a mio parere è una sorta di Loach malincomico, nel senso che non c'è nessuno come Edoardo Leo, sia da attore che da regista, che racconta la generazione dei 30-40enni con questa leggerezza e anche però con questa ferocia, con questa lucidità. E questo è il grande merito di Che vuoi che sia, che forse verrà sottovalutato perché non fa così ridere come i precedenti, non è così dolce come i precedenti, e forse ti mette più a nudo come i precedenti. In fondo era quello che voleva anche la trama, metterci a nudo. E allora, questo è Che vuoi che sia. Boris, grazie e ci sentiamo la prossima settimana con tanti altri nuovi film. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora siamo giunti al momento della verità, nel senso che dobbiamo svelare i vincitori del game della scorsa settimana e qual era invece il film misterioso di oggi. Cominciamo con la settimana scorsa, avevamo giocato così. Ci conosciamo? Sì. Oh, meglio no, ovvero non ancora. Uffo, sento di conoscerti. Beh, ci siamo già visti quando ero più giovane. Oh, mi dispiace, ma non ricordo. Questo è perché ancora non è successo. E allora, si trattava di Alice attraverso lo specchio. I più bravi e i più veloci sono stati Carlo Nardone di Roma e Lucia Crisanti di Pavia. Saranno loro a ricevere il Blu-ray di questo film Disney della stagione scorsa, del quale ci facciamo raccontare tutto da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto radio ascoltatore. Sì, Alice attraverso lo specchio, dal successo del film di Tim Burton, il film precedente Alice in Wonderland, nasce quella che è una sorta di saga a sé, un franchise a sé, slegato ormai dalle storie di Lewis Carroll. Un film che prende in prestito molto del cinema fantastico per l'infanzia da Oz alla Storia Infinita. È un prodotto di intrattenimento decisamente decoroso, nonostante le critiche molto aspre che il film ha ricevuto, e che arriva in edizione Blu-ray, con un ottimo riversamento e pieno di contenuti inediti, da Dietro lo specchio, in cui il regista James Bonin rivela i dettagli del making of, fino a approfondimenti sui costumi del film, sui personaggi, passando per videoclip, scene illuminate e verificando quello che è veramente un ricchissimo menu di contenuti speciali. E allora, questo è il nostro gioco della scorsa settimana. Diamo un'occhiata invece ai palinsesti TV. Abbiamo parlato e abbiamo sentito anche poco fa Marco Bellocchio con il suo nuovo film Fai bei sogni. Beh, chi vuole riportare indietro le lancette del tempo e vedere quale fu il film che ha lanciato, consacrato Marco Bellocchio fra i grandi del cinema, può guardare Rai Storia domenica 13 novembre alle 21, perché c'è I pugni in tasca. Siamo nel 1965, quindi più di 50 anni fa e 3 anni prima del 68, e Marco Bellocchio esordisce giovanissimo nella sua Bobbio con un film che fa veramente a pezzi il sistema familiare, raccontando di un figlio epilettico che vuole sollevare l'unico fratello, diciamo tra virgolette, normale dal peso dei parenti fragili, problematici, e lo fa uccidendoli. È veramente un debutto estremista anche a livello formale e linguistico, che contribuì in maniera decisiva ad accelerare la modernità del nostro cinema. C'è il montaggio rapsodico di Silvano Agosti, la musica angosciante di Ennio Morricone e attori fuori veramente dagli standard abituali del cinema realista. È veramente interessante vederlo oggi, mentre, come dicevi, c'è nelle sale Fai bei sogni, che è il mesmo romanzo familiare di Bellocchio, pieno di rotture, traumi psicanalitici. E allora, I pugni in tasca, Rai Storia, domenica 13 alle 21, e invece un altro passo indietro nelle filmografie da parte di un regista, Darren Aronofsky, che poi si è andato a portare a casa un film come The Wrestler, che ha incantato tutti, e tutto cominciava, o quasi, perché un film l'aveva già fatto, ma insomma il film di consacrazione di Aronofsky è Requiem for a Dream, che Rai Movie mostra martedì 15 alle 23:10. Sì, dipendenza, droghe, pasticche, depressione, prostituzione, diete rapide, soldi facilissimi e smania per il successo. Dal romanzo di Hubert Selby Jr., un assalto sensoriale sconcertante, potentissimo, anche molto problematico da un punto di vista morale, fatto dalla musica di Clint Mansell e di un montaggio martellante, con cui Darren Aronofsky costruisce, dopo il suo film d'esordio, Pi greco, un altro teorema del delirio. Racconta un'America malata di velocità, consumismo, fatta e sfatta da immagini di videoclip e spot televisivi. È veramente un film come se l'immaginario tra gli anni 90 e gli zero divenisse la sua caricatura malata ed esplodesse. E allora, questo l'appuntamento, Rai Movie, martedì 15 alle 23:10 per Requiem for a Dream. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E allora, siamo arrivati alla fine della trasmissione, sveliamo il titolo del film misterioso di oggi, Tartarughe Ninja fuori dall'ombra. Con questo abbiamo giocato i vincitori la prossima settimana. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti.